Mi piace questo progetto di un'altra Radio de Roma. Si dice così, dice così, dice così. Ragazzi, siamo partiti. Ragazzi, siamo partiti. Tidi, tidi. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. In altra Radio Roma. Che emozione, che emozione. Sono qui pronto per lanciare nuovi pezzi. Pronto per darvi un altro po' di roba. Pronto per darvi un altro po' di roba. Pronto per darvi un altro po' di roba. Perché noi non siamo de pelastica. Un'altra Radio Roma. Finalmente li ho cacciati via e sono diventato l'unico proprietario di questa splendida radio. Allora, riveniamo a noi. Ho abbassato un po' la musica, ma credo che si senta ancora un po' troppo. Allora, che cosa mi dice Mr. Gaspo? Che cosa le succede oggi? Che succede? Ci racconti qualcosa che le è successo oggi? Dai, ci intrattenga un pochino, visto che non ha parlato per niente stasera. No, è vero, sono stato a parlare 3 ore e mezza a infognare Mister Bruntolo, voglio dire, alla fine qualcosa avrò fatto, no? Allora, voglio dire una cosa, è successo qualcosa di particolare oggi. Ormai voi tutti sapete che io lavoro nell'ambito della sanità, ma non voglio specificare né dove, né come, né cosa faccio, eccetera. E ho avuto la necessità di usufruire del Servizio Sanitario Nazionale per quello che riguarda il pronto soccorso, in quanto mio figlio si era fatto male a un braccio e volevo assincerarmi che tutto fosse a posto. Vi posso assicurare che stare dall'altra parte è veramente, veramente una cosa stressante e burocratica, lunga, eccetera. Io non critico chi lavora, perché poi del resto sono tutti i miei colleghi, ma critico quello che poi uno vive. Però poi rischiamo di entrare troppo in politica se prendo questo discorso, perché mi verrebbe da domandare: ma perché sono stati tagliati tanti tanti posti? Ma perché il personale non viene assunto? Che fine hanno fatti i soldi destinati alla sanità pubblica? Boh. Però ripeto, rischiamo in qualche modo di entrare in discorsi politici. Non è questo l'andazzo di questa serata, ma in realtà l'andazzo di questa serata è quello di raccontarvi quello che i 4 DJ, che siamo noi, cioè voglio dire, oggi avete la fortuna di avere tutta la radio riunita. Voi direte, ne manca uno. Sì, però voi avete tutta la radio riunita, vero Mr. Campo? Qualcuno non ne sarà contento. Facciamo gli auguri a Matteo. Auguri Matteo, auguri a Matteo, che per essere andato, e auguri. Auguri a Matteo, abbiamo risolto il problema delle pizze e stiamo cucinandoci un piatto di pasta. Io sto sempre a dieta. Sti cavoli, ma noi ci abbiamo fame. E io vi guarderò. Benissimo. Che pezzo vuole passare? Voglio passare Scanda, La notte del diavolo. Ci racconti? Ma non abbiamo già sentito di Scanda? No, mi sbaglio. Ma è successo? Fit, Lord Bendress, Acid One e Zender. Sì, La notte del diavolo, parte 2. Quanto male c'è a giro, forza. Scanda, a.k.a. Kid Large, Lord Madness, Acid One, Zender. Oh, questa è la notte del diavolo, in realtà sarà nel fradicio. Depresso come la mia città, fai monotoni da crunch. Dico bene nel mio disco vecchio, senti l'odore del sangue anch'io e non mi sento scemo. Non farei questo senso, no di certo, ma se ti affaccia alla finestra vedrai il diavolo sul parapetto. È una società ambiziosa che mi rende chiuso, vuoi che ti citi in un pezzo, zio, ne ascoltati uno sputo. Deluso dalla mia famiglia e dall'amore, confuso dopo una bottiglia con cui piscio sul mio onore. Metto la testa in un imbuto e vomito per ore, tutta la mia rabbia, il mio disprezzo e la mia frustrazione con cui chiudo. Fucking fake, misantropo da un pezzo, misogino direi, ma quello non fa testo. Mi guardo allo specchio e non mi riconosco, c'ho un aspetto caprino e ti odio più che posso. tutto ciò che affermo e resta zitto. Dopo ripeterai le mie rime col polmone circoscritto, crollerà il soffitto. Dimmi tu quant'è che vale un sacrificio, se prendo il tuo cuore in mano pensando, ora lo spriciolo. Leggo il libro del demonio, svengo al primo capitolo, e quando rinsavisco mi accorgo che il libro non ha titolo. Tutte pagine bianche, si tratterà di un segno premonitore, se l'autore si è firmato col sangue. Nell'inferno dantesco non ne esco, difficile, non sento Dante ciò che dice, perché violento Beatrice. La pianta è malata dalla radice, disegno una croce rovesciata in fondo al diario di Bridget. Traduco in aramaico ogni citazione di Nietzsche, infilami la gongola e poi chiedimi se sono felice. Stanotte avverrà una mutazione genetica, mi trasformo in Satana, stravolgo totalmente la mia estetica. È la sua notte, quella in cui paghi i tuoi debiti. Il male ti circonda, faresti meglio a crederci. Dentro al tuo telefono, nei tuoi cicchini e il resto. È la notte del diavolo, e ci siamo tutti dentro. È la sua notte, quella in cui paghi i tuoi debiti. Il male ti circonda, faresti meglio a crederci. Dentro al tuo telefono, nei tuoi cicchini e il resto. È la notte del diavolo, e ci siamo tutti dentro. È la notte del cazzo di un ex ragazzo, in compagno da solo, e un coro di voci che parlano, parlano. Ora che tutti i rapper scrivono di paranoie vere o simulate, sembrano tutte cazzate. Gore, gore, devi riconoscerlo dal falso. Sono anni che mi muovo con lo sguardo sempre in basso. Ora che questo va di moda, mi dà noia. Con rap mi ci sfogo ed è solo per la mia gioia. Voi altra a casa che non vi devo niente. Io lo faccio per me stesso, io lo faccio per la mia gente. Che siamo in pochi e saremo sempre in meno. Con lo sguardo dentro al vuoto, esit one, perdente in pieno. Mi distrago con la batteria, qualche suono e per poco scappo da monotonia. E il mio malessere interiore non muore. Esit one, gore, gore, shit, hardcore. Ho una canzone in testa che sporge come cervice. Un canto lamentoso con più denti del pice. Ho la basciura accesa dentro il monolocale. Sfoglio una brochure sorpresa nel constatare che le pareti sembrano quasi stritolarmi. Metri quadri dimezzano prima d'addormentarmi. L'odore di zolfo impregna forte della vita, chiuso come golfo in stolta notte, muffita. Polvere da iti, zoccoli tettano ritmo. Gli occhi si fan ciechi ma non è colpa di ipno. Sul letto lubrico ricerco mia dimensione. Vanto, forza del dubito, sconvolto da visione. Un diavolo parla linguaggio forbito, mi indica la strada per un posto sconosciuto. Mi offre 10 dei suoi per farmi da scorta. A bava alla bocca mentre avanza l'offerta. È la sua notte, quella in cui paghi i tuoi debiti. Il male ti circonda, faresti meglio a crederci. Dentro il tuo telefono, nei tuoi cicchini e il resto. È la notte del diavolo, e ci siamo tutti dentro. È la sua notte, quella in cui paghi i tuoi debiti. Il male ti circonda, faresti meglio a crederci. Dentro il tuo telefono, nei tuoi cicchini e il resto. A me è piaciuto particolarmente, sono veramente bravi questi ragazzi. Ma dove l'ha trovati? Questi li ho scaricati sempre da oniro.it. Allora, spieghiamo un attimo. Gli artisti che producono musica Creative Commons non sono nient'altro che quegli artisti che fino a poco tempo fa avete già seguito involontariamente, magari su YouTube o su MySpace e via dicendo, no? Adesso questi artisti mettono i propri brani, licenziati Creative Commons, su delle piattaforme come per esempio Jamendo, Free Music Archive, MacIdol, Dogmazic, oppure direttamente su delle net label, che sono delle label che girano su internet, dove ognuno di voi può andare tranquillamente a ascoltarli, scaricarli e degustarseli attraverso i propri lobby uditivi nelle proprie cuffiette quando vuole e gli piace, giusto? Beh, è stato chiarissimo. Benissimo, cari amici della Creative Commons, mi si è bloccato il lettore, questo continua, vabbè. Dicevamo, allora, un altro pezzo che dovrebbe passarlo in questo momento il nostro amico Cocot. Allora, eccoci. Allora, presento il prossimo album che andremo a sentire. È l'ultima release della Noisebeat Net Label di Caserta. Un saluto a Lello che adesso vive a Bologna. Lui è Dub Hash, proprio come Hash, come Hashish. Dub Hash, direttamente da Bologna, sulla Noisebeat Net Label. Il nuovo album. Una traccia a caso è ottimo per un ascolto dubstep. Platform 5. No, aspettate, Platform 5. Guarda, io rimango agghiacciato. Dai, Giappone che... in mare l'acqua radioattiva, la Tempco inizia la... lo sversamento, radiazione oltre la norma a 30 km dalla centrale. Cioè, questi si versavano l'acqua radioattiva direttamente nel mare. Sì. Platform 5. Rinvio lancio per traffico. Cioè, questa è una bella notizia, mister Gaspo, da commentare. Traffico aereo, cioè che cazzo di traffico c'era per uno shuttle? Scusa. È stato rinviato di 10 giorni per motivi di traffico il lancio dello shuttle Endeavour, con il quale voleranno l'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea Roberto Vidori e lo strumento AMS Alpha Magnetic Spectrometer. Vabbè, gli si stanno intrecciando. No, gli occhi lo posso capire, vista l'ora. E anche la lingua, sì, infatti. No, guardi, potremmo fare una puntata su Oltre il Confine, io e lei, proprio su ma perché investire tanti soldi per buttare immondizia nei cieli? Oddio, questo è un discorso. A me piace. A me piace il fatto di buttare i soldi nel cielo. Però gli shuttle che mandiamo nello spazio non solo portano immondizia, però comunque ci portano anche avanti, ci fanno fare nuove scoperte, ci fanno vedere il mondo da fuori. Ci portano. No, soprattutto. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Ci stanno dei telescopi che possiamo dire, fra parentesi, che è come se tornassero indietro nel tempo, perché riescono a vedere talmente tanto lontano che riescono a capire lo sviluppo dell'universo dal Big Bang. Sì, sono quasi arrivati, è uno spettacolo, ma se no come avremmo saputo tante cose? Che cosa cerca? Ma io credo che stava pensando a una ricetta sbrigativa per fare la pasta. Allora, la bilancia per che cosa? Ma che la butti tutta, no? La butti tutta, è un po' di pasta, siamo io e lei, la butti tutta. Perché okay. Tempo sta a dieta. Esatto, io volevo dire una cosa, un'altra Radio Roma è piena di progetti, sta organizzando il palinsesto, vi dà appuntamento a lunedì prossimo per la chiusura del Jazz al Teatro insieme a Paolo Pavan Quartet. Abbiamo aperto la stagione con lui e la chiudiamo con lui. E domani vi diamo appuntamento, come abbiamo detto prima, a quello che sarà il nuovo programma, ma soprattutto fra poco ci sarà la nuova recensione su Denartra Radio Roma. Scusate. Inviata da Mr. Renton, che però prima di anticipare del gruppo di cui parlerà, noi abbiamo postato pochi giorni fa la recensione di Runa Raido, che vi consiglio di andarle a leggere e vi li voglio passare così per divertimento. Loro sono i Runa Raido. Lucia non è cara, bella donna rosa. Lucia non è madre attenta, premurosa. Lucia non è stanca, sera si riposa. Lucia non è mani in pasta alla farina. Lucia non è cara, bella donna rosa. Lucia non è madre attenta, premurosa. Lucia non è stanca, sera si riposa. Lucia non è pasta alla farina. Cocaina, Eccoci di nuovo in diretta per gli ultimi 15 minuti di trasmissione. Esatto. Un'altra Radio Roma vi ha passato, spero, buona musica. Ci siamo fatti quattro chiacchiere. Due risate. Abbiamo banalizzato, anche perché Cocot si può solo che banalizzare. Ma non è vero, voglio dire, anche lui si sta sforzando a avere una comunicazione che vada al di là della stupidaggine. Sta avanti, ma io l'ho sempre detto che sta avanti. Ma vogliamo, voglio dire una cosa, cioè, noi fino ad oggi abbiamo messo sul nostro blog chi siamo e a fianco il soprannome che ci siamo dati, ma in realtà ogni nome ha un significato dietro, ognuno di noi ha un motivo per cui ha scelto il proprio nome. E visto che questa serata abbiamo voluto infognare Mr. Brontolo, lo sapevate che cosa significa Cocot? Andate su Wikipedia. E sicuramente diciamo la lingua, cos'è? No, invece è proprio su quello che volevo giocare. Ah sì? È proprio su quello che volevo giocare. Scrivete Cocot e poi scegliete un po' di lingue. Quello che, diciamo, da quello che traete le informazioni maggiori? Secondo me. No. Dice... qui allora lei in qualche modo che falsifica il gioco. Non ho sentito perché ero in cuffia. Che ha detto? Ha detto praticamente che Cocot si scrive con due C invece che con la K. Certo. Nella lingua originaria bisogna dire, beh, cioè se devono andare a cercare, voglio dire, ha stravolto la parola, però. Ha stravolto la parola, ci ho detto la bugia. No, non ha stravolto. Lui l'ha colorita, l'ha modificata in base a quello che era il personaggio, cioè voglio dire. Io non sono d'accordo. Comunque, Cocot si scrive con due C, giusto, Mr. Cocot? Nella lingua originale, senza che vi diciamo qual è la lingua, Cocot si scrive con due C. Ok, fatto questo, andate su Wikipedia, scrivete Cocot con due C e scoprirete... Ma no, Cocot! No, Cocot, ok? E scoprirete il significato. Poi, il primo che ci manderà un messaggio o via Facebook o attraverso un'altra radio @live.it avrà il regalo, il primo adesivo dell'altra Radio Roma, ok? E Schiri scopre qual è l'acronimo, a quel punto gli offriremo una diretta intera. Cioè gliela daremo addosso una diretta? Sì, ovviamente sì. Ok. Allora, detto questo, quale pezzo voleva passare lei? Io ho pinto la canzone Drilling My Brain. Su un'altra? Radio Roma. Fuso? Per... Fuso, ma un'altra. Diciamo che Fuso Radio diventa un'altra radio. Fuso Radio, un'altra radio. Diventa un'altra radio. Fuso Radio, Fuso radio. Roma. Enar. Di realtà finirà la tua fedeltà nell'aldilà, qua non è Shangri-La, da fuori grandina, la mente aprila, se non occhi esaminati, ruba l'anima, io le certezze ho preferito i dubbi, il mio ragionamento, oltrepassa le nubi, viaggio distante dal tuo spazio-tempo, anche col temporale, cerchio sul temporale, ammazzo il tempo a capo, e se mi stempio, prevedo uno scempio, vedi come mi riempio, prendetemi da esempio. Entra nel tempio delle idee più cupe, non quella Guadalupe, quello di un uomo super, che sta sul ciglio di una rupe senza batter ciglio, da dietro gli bisbiglio, che quasi gli somiglio. Voglio vedermi dentro, sì, basta solo che entro qui, devo mirare al centro di questo cervello spento, concentro il flow, detto il concetto, ho detto più lento, sfaccetto il mondo violento. Voglio vedermi dentro, sì, basta solo che entro qui, devo mirare al centro di questo cervello spento, concentro il flow, detto il concetto, ho detto più lento, sfaccetto il mondo violento. Vado contro tendenza, io pro contro violenza, il pacifismo ricompensa, solo la prepotenza, non sento il tuo bisogno d'appartenenza, sento il bisogno di aprirvi la coscienza. Intanto apro la mia corrispondenza dell'ippocampo, così se campo non ricordo della mia esistenza, proietto immagini in sequenza della mia esperienza, capto questa frequenza senza latenza, partenza per la via della lobotomia. Diventi Ave Maria dopo che ascolti me. Il mio pensiero mica è rondine, nell'universo regna l'ordine della follia. Non c'è un messia lì ad aspettare, nemmeno un'area, ma ciò che c'è che compare e scompare. Non puoi contare di raggiungere a nuoto un vuoto che non potrai colmare, colmare. Voglio vedermi dentro, sì, basta solo che entro qui. Devo mirare al centro di questo cervello spento. Concentro il flow, detto il concetto. Ho detto più lento, sfaccetto il mondo violento. Voglio vedermi dentro, sì, basta solo che entro qui. Devo mirare al centro di questo cervello spento. Concentro il flow, detto il concetto. Ho detto più lento, sfaccetto il mondo violento. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, non è finito, ragazzi. Siamo sempre su un altro giro di un'altra Radio Roma, ragazzi. Salite a calcio in culo, prendete solo la stecca e vi vado un giro gratis, solo 500 lire. Campo, mi fai un filtro? Grazie. Allora, mentre la pasta si sta preparando e ci stiamo per avviare a quello che è il momento conclusivo di questa trasmissione, che poi trasformeremo in un podcast che potrete risentire giovedì alle 17.30 su Fuso Radio, mentre si sta giungendo alla fine, vorrei dire una notizia importante. Abbiamo scoperto che un noto personaggio di una radio famosa romana ci ha ascoltato e ci ha copiato i jingles. Lo sapevate voi? No, e non ho detto chi. Attenzione, non ho detto né chi e né che radio, quindi sia chiaro. Ma tanto sono Creative Commons. I nostri jingle sì, ma il problema è che sono Creative Commons i jingle, ma lui ha copiato il modo in cui facciamo i jingle, è diverso, non è che ha copiato il jingle nostro, il sistema in cui facciamo i jingle, però possiamo dirla anche tutta, la diciamo tutta, Mr. Campo? A me non c'è bisogno. Io la voglio dire tutta. Io no. In realtà noi prendiamo spesso spunto da quella radio, quindi forse siamo stati noi a copiare qualcosa da loro, Dai, diciamola tutta, su. E sono cose che succedono, mi dicono dall'altra parte del vetro. C'ho le cuffie e c'è il vetro, non la sento, per cortesia. Allora, è un po' che non li passo, ve li ripasso volentieri. Loro sono i Rain ed il brano si intitola È finita. E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che certo non era così che doveva finire. Abbiamo gli occhi sul finestrino, dove le case non sono le stesse, chiuse dietro a mura da cui non puoi più scappare. E mi chiedevi dove si nasconde l'infame che le ha costruite. E le piazze sono vuote, non gli servono catene. Loro pensano al nostro bene, loro pensano per noi. E le domande sono neve che si scioglie il giorno dopo. Nella vita quotidiana siamo ovunque, nessun luogo. Saranno sbarre a farmi da galera o a spaccarmi la minza alla notte, tra attentati e tritolo esplosi quasi per noia. Ma dentro le loro stanze conviene obbedire, non fare domande. Avrò nascosto per bene le prove per discolparmi in tribunale. Ho già interrato la mia pistola caricata a sale. E quando saranno alla porta, io gli urlerò di non avere paura. separare il falso dal vero. Saranno ronde di ferro a difendermi dall'uomo vero. E sarà tardi per capire che cosa è che non si poteva comprare. Come il divino in un campo di grano, come i sogni che mi hanno rubato, come le guardie vestite da persone per bene, come lo specchio che ogni mattina ricorda benissimo da che parte stare. Nella notte illuminata dai fanali del consenso, gli abbonati della calma esplodevano in silenzio, senza emettere sentenze, senza scontri né pistole, fucilavano gli ostaggi in nome dell'amore. Vabbè, mi hanno messo il microfono in bocca perché loro stanno mangiando la pasta. Io invece, come dicevo, sto a dieta e quindi ci tengo a mantenere la mia splendida forma. Ne riparleremo fra qualche anno, anzi voi già ce l'avete. Noi ne abbiamo. Ne sono appena arrivati i due primi piatti. Pennette, aglio, olio e peperoncino dalla cucina, da un'altra cucina. E penso che il pubblico qui è gradito, il ristorante è pieno. La musica e i balli sono a pieno ritmo. E adesso mandiamo un bel pezzetto che Mr. Gasperino spero che abbia trovato. Lui è Domino, dall'album Space Invaders, dalla mia uscita numero 30 di Noisebeat. Domino! Thank you. raccontarvi di Mr. Brunto e il suo viaggio in Argentina. Invece voglio raccontarvi di Mr. Cocot, che si cimentò a fare l'attore su un palcoscenico parrocchiale, dove lui ebbe la parte del prete in Aggiungi un posto a tavola. E un nella realtà era del signor Panelli. Voi ricordate Panelli nel Conte d'Acchia? Molto bravo. Il sindaco faceva. Non faceva il sacerdote che. Il sacerdote lo faceva il Sor Panettoni. Ma dai! Sì, il Sor Panettoni. Però lei all'epoca. Neanche mi ricordo, però. All'epoca ebbe notevole successo. Moltissimo. Copertine, mentre tutti quanti si dedicavano a quest'opera, cercavano in qualche modo di far sì che funzionasse, lei, come al solito, era il cretino sul palco che sembrava messo lì, non si è capito a fa che. Era un teatro d'avanguardia. Sì, molto era alla, molto all'avanguardia, underground ricercato, il Sor Leoni, il Sor Panettoni, tutti i pischelletti che a quell'età avevano la loro età. Non diciamo l'età, visto che abbiamo tutti i cognomi di tutti. Sono amici, sono persone, nostri amici. Che adesso stanno in giro per il mondo famosi e hanno milioni di avvocati. E adesso sono cacchi suoi, Mr. Cocot. Sì, perciò adesso è ora di passare un bel pezzo. Ma no, io volevo farle cantare un pezzo. Cioè, lei cantava, Aggiungi un posto a tavola, io mi ricordo che lei cantava qualcosa. Tipo... Cantavo, Aggiungi un posto a tavola. Proprio quella cantava. C'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola, me sa che entri pure tu. E tutti quanti vi posso assicurare, c'era il tribudio. Non è stato fatto una sola replica. 26 repliche, esatto, con tutti i familiari che portò Mr. Cocot. Ebbero la necessità di fare 26 repliche. È stata una cosa pazzesca. È stata nominata anche Santa Monica. Esatto, era santa, per questa, doppiamente santa. Double Santa Monica adesso. Mr. Cocot, lei sa dirmi il significato della parola carama? No, ma posso darvi la spiegazione della parola Pantarei. Quella era l'altra puntata dove lei non c'era e quindi non può rispondere. Io sono un ascoltatore. Allora, carama, sa che cosa significa? Cosa? No? Quale parola, scusi, ripeta? Carama. In lingua portoghese? Portoghese. Ok, dopo questo ho dato una lezione di cultura, okay. Puoi anche mettere basta. Il pezzo. Allora, avete capito che è un portoghese, andate a cercare. Allora, no, a parte scherzi, Carama sono un gruppo torinese che insieme dal 2008 ci presentano un indie rock alternativo con sonorità moderne. E il brano è uscito da poco su Jamendo e si intitola Corpi di Plastica. L'album Indietro non si torna. un salustro ragazzi da Mr. Corbett che vi augura tanta buonanotte. Ringraziamo tutte le net label partecipanti qui per il Commons sulle onde sonore di Nastro di Roma. Ringraziamo chi ci ha ascoltato e chi non ci ha ascoltato. Ringraziamo soprattutto perché ci avete fatto compagnia anche questa sera. Una diretta che doveva essere molto più comoda, doveva iniziare qui nello studio da una programmazione alle 7, poi per un imprevisto, necessità, bisogna anche mettere delle priorità. Abbiamo spostato il tutto di un'ora, ma poi alla fine eccoci qui che in qualche modo abbiamo tirato fuori questa diretta che poi diventerà il podcast di Fuso Radio di giovedì. Pensavate che era andato via? Invece era ancora qui. Vi saluto, vi do la buonanotte, vi aspetto alla prossima puntata. Un'altra Radio Roma manda solo musica autoprodotta o Creative Commons. L'appuntamento è per domani sera alle ore 21 per un'altra intervista con i palcoscenici col neon direttamente da Roma. Saranno intervistati. Preparatevi anche le domande che vorrete porre a questo gruppo, che si sottoporrà a una lapidazione ufficiale via web qui su un'altra Radio Roma, da noi e da voi, cioè voi potete, virtuale, tutto virtuale, voi sarà reale nel cervello. Esatto, voi potrete scriverci le vostre domande, cioè quello che vorreste chiederlo, e noi non lo leggiamo. Semplicemente così, come ha detto Mr. Gasperino. Esatto. Penso che sia il motto di chiusura di questa puntata, che alla fine si è conclusa in modo positivo. Esatto. Stiamo tutti bene e respiriamo ancora. Ah, lo sai che io ho visto Remotti nel film nell'ultimo film della Paola Cortellesi, quello Nessuno più vuol giudicare, c'è una parte Remotti che gira a casa sua, esattamente da dove abbiamo tratto il jingle. Il jingle, e che abbiamo visto anche casa sua. Esatto, questo era che il suo... si trova. Questo è il jingle che ci ha donato, insomma, no? Grazie a Remo Remotti, grazie a Natale di Roma, un saluto a Gasperino e a Kempo e a Brontolo che sta a casa. Grazie agli amici di Fuso Radio. Fuso radio. Sì. Nar tra Radio Roma. È tornata. Free. Ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi. Ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi. Ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi. C'è tempo per noi. Nessuno. Proprio nessuno. C'è tempo, non è. Bastardi. Buonanotte a tutti. A tutti. E buonanotte a tutti. Buonanotte a Gabriele. Buonanotte a DJ Brutto. Buonanotte a DJ Robert. Buonanotte a nessuno. Buonanotte a tutti. E buonanotte al cazzo.